ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Vennero un giorno da me due giovani a chiedermi in prestito, con aria misteriosa, una mia tunica bianca da medico. Non chiedessi a che cosa dovesse servire, era un segreto, ma l'avrei saputo il giorno seguente. Me l'avrebbero riportata la sera. L'indomani, mentre passeggiavo sulla piazza, vidi la gente accorrere verso la casa del podestà, davanti alla quale s'era radunata una piccola folla. Ci andai anch'io e mi fu fatto largo. Vidi allora che dentro a un cerchio di uomini, donne e bambini, spettatori appassionati, era cominciata, senza palco né scene, sui sassi della strada, una rappresentazione teatrale. Ogni anno, come seppi poi, in questi primi giorni di Quaresima, i contadini avevano l'usanza di recitare una loro commedia improvvisata. Qualche volta, ma assai di rado, era di soggetto religioso. Qualche altra ricordava le gesta dei paladini o dei briganti. Il più delle volte erano scene comiche e buffonesche tratte dalla vita quotidiana. Quest'anno, l'animo ancora commosso dalle recenti vicende, i contadini avevano immaginato un dramma satirico a sfogo poetico dei loro sentimenti. Gli attori erano tutti uomini, anche quelli che facevano parti femminili, giovani contadini miei amici, ma che non potevo riconoscere sotto le loro straordinarie truccature. Il dramma era ridotto a una semplice scena che gli attori improvvisavano. Un coro di uomini e donne annunziò l'arrivo di un malato. Ed ecco il malato, portato su una barella, col viso dipinto di bianco, gli occhi cerchiati di nero e segni neri sulle guance, incavate come quelle di un morto. Il malato era accompagnato dalla madre piangente, che non diceva altro che figlio mio, ripetendolo di continuo per tutto il tempo della rappresentazione, come un monotono, triste accompagnamento. Accanto al malato, chiamato dal coro, appariva un uomo vestito di bianco, e su cui riconobbi la mia tunica, che si apprestava a guarirlo, ma ecco comparire, ad impedirglielo, un vecchio dagli abiti neri e dal pizzo caprino. I due medici, il bianco e il nero, lo spirito del bene e quello del male, contendevano come l'angelo e il demonio attorno a quel corpo giacente nella barella e si lanciavano battute satiriche pungenti. Già l'angelo aveva la meglio e obbligava a tacere il suo nemico quando arrivò di corsa un romano, dal viso mostruoso e feroce, che forzò l'uomo bianco ad andarsene. L'uomo nero, il professor Bestianelli, corruzione di Bastianelli che è celebre anche fra questi contadini, rimase padrone del campo. Da una borsa trasse un coltellaccio e cominciò l'operazione. Diede un taglio sui vestiti del malato e con rapida mossa della mano trasse fuori dalla ferita una vescica d'intestino di maiale che vi era nascosta. Si voltò trionfante verso il coro, che mormorava proteste e parole di orrore con la vescica fieramente brandita, gridando: «Ecco il cuore!» Con un grosso ago bucò quel cuore e ne uscì uno zampillo di sangue, mentre la madre e le donne del coro cominciavano il lamento per il morto e il dramma finiva. Non ho mai saputo chi fosse l'autore. Forse non ce n'era uno, ma parecchi, tutti gli attori messi insieme. Le battute che improvvisavano si riferivano alla questione che agitava gli animi in quei giorni, ma la finezza contadina faceva sì che le allusioni non fossero mai troppo dirette e che rimanessero comprensibili e penetranti senza diventare mai pericolose. E, soprattutto, al di là della satira e della protesta, il gusto dell'arte li aveva trascinati. Ciascuno viveva la sua parte e la madre piangente sembrava una disperata eroina di tragedia greca o una Maria di Jacopone. Il malato aveva Il vero viso della morte, il nero ciarlatano spillava il sangue dal cuore con un diletto feroce. Il romano era un mostro orribile, un drago statale, e il coro assisteva e commentava con disperata pazienza. Era quello schema classico, un ricordo di un'arte antica, ridotto al povero residuo dell'arte popolare, o uno spontaneo, originario rinascere, un linguaggio naturale in quelle terre dove la vita è tutta una tragedia senza teatro. Appena finita la recita, il morto si alzò dalla barella, gli attori scesero svelti per il vicolo e si avviarono alla casa del dottor Gibilisco. Qui la rappresentazione ricominciò e nel corso della giornata fu ripetuta molte volte. Davanti alla casa del dottor Milillo, alla chiesa, alla caserma dei carabinieri, al municipio, sulla piazza e qua e là per le strade, a Gagliano di sopra e a Gagliano di sotto, finché venne la sera. La tunica dell'angelo mi fu trionfalmente riportata e ciascuno tornò alle sue case. Lo sfogo poetico non calmò gli animi, né abolì i risentimenti. I contadini ritenevano il divieto una cosa assurda e si rifiutarono di tenerne conto. Mi cercavano come prima per farsi curare, soltanto venivano da me la sera a buio e si guardavano attorno prima di battere al mio uscio per assicurarsi che la strada fosse deserta e non ci fossero spie. Rimandarli senza occuparmi di loro mi era praticamente impossibile, tanto insistevano e tanto pesava la ragione maggiore della necessità. Della loro assoluta segretezza e solidarietà ero certo. Si sarebbero fatti ammazzare piuttosto che tradirmi. Ma, tuttavia, la mia arte medica si trovava per forza ad essere molto ridotta. Dovevo limitarmi a dei consigli. Distribuivo io stesso le medicine più comuni di cui avevo fatto provvista. Per le altre non potevo scrivere ricette, o le facevo soltanto per quelli che le mandavano a qualche parente a Napoli perché le facesse spedire. Non potevo più fare fasciature, né quei piccoli interventi chirurgici che, essendo visibili, avrebbero rivelato a tutti il nostro segreto. Questa necessità di nascondersi teneva gli animi accesi. La noia era scomparsa dal paese. Il divieto era cascato come un sasso di fantasia nell'acqua morta della vita monotona dei signori. Il dottor Gibilisco trionfava. Fosse egli stato o no il Deus ex machina, che non ho mai saputo, la sua gioia era completa. I sentimenti del vecchio dottor Milillo erano più complessi e contraddittori. Dal punto di vista del suo orgoglio e del suo interesse professionale, si rallegrava di aver perso la mia concorrenza, ma da buono ex nicchiano e antico liberale non poteva fare a meno di disapprovare apertamente l'arbitrio della questura. Egli era in fondo il più fortunato, perché godeva insieme di due diversi piaceri: quello materiale del suo vantaggio e quello morale di poter esprimere onestamente la sua deplorazione e la sua amicizia. Per donna Caterina l'avvenuto era una grave sconfitta. I suoi progetti andavano in fumo, la sua passione dominante era umiliata di fronte ai suoi nemici. Faceva fuoco e fiamme. «Se quello scemo di mio fratello», arrivava a dire, «che è sempre troppo debole, non si muove, andrò io stessa a Matera a parlare al prefetto». Era la mia principale alleata. Don Luigino, lui, non sapeva come comportarsi. Spinto dalla sorella e dall'opinione popolare, avrebbe voluto agire, far valere le sue aderenze per il bene del paese. Ma temeva, pigliando partito, di inimicarsi le autorità. E questo lo tratteneva dal far nulla se non dallo schierarsi, almeno a parole, nella fazione di donna Caterina. I signori erano dunque divisi, come Guelfi e Ghibellini, e gli uni si trovavano a far lega col popolo, mentre gli altri restavano soli, ma con l'appoggio potente del Sacro Romano Impero di Matera. Don Luigino si barcamenava tra quei venti contrari. Era il podestà, il tutore della legge, qualunque essa fosse. Ma della legge aveva uno strano concetto. Una sera mandò una sua fantesca a chiamarmi. La sua bambina aveva mal di gola. Doveva essere certamente una difterite. Gli feci rispondere che non sarei andato, perché mi era vietato. Mi rimandò alla sua ambasceria. Da lui potevo andare perché egli, come podestà, era superiore ai regolamenti. Gli dissi che gli avrei guardato la bambina a condizione di poter trattare nello stesso modo, col suo consenso, qualunque contadino ne avesse bisogno. Curasse intanto la bambina e poi si sarebbe visto. Darmi un'esplicita autorizzazione non poteva, ma chiudere un occhio sì. La difterite della bambina non era naturalmente che una delle tante malattie immaginarie del padre. Così si stabilì quel modus vivendi, che durò poi sempre, per cui io facevo il medico a mezzo, con un mezzo consenso non esplicito e soltanto fin dove la cosa potesse essere tenuta segreta. Avrei preferito smettere del tutto e non pensare più ad altro che ai miei quadri. Ma era impossibile, finché fossi rimasto a Gagliano. Naturalmente questa situazione illegale e nascosta aveva i suoi inconvenienti, tanto che ci fu ancora qualche episodio che minacciò di riaccendere i furori così faticosamente sopiti. Una sera arrivò da Gaglianello un giovane accompagnato da altri contadini con un braccio legato. Si era ferito con un falcetto fra due dita. Quando gli tolsi il legaccio, il sangue schizzò violento contro il muro. Era tagliata l'arteria interdigitale. Bisognava cercarne il moncone con una pinza e legarla. Ma non potevo fare io stesso questa piccola operazione, perché si sarebbe risaputo. Mandai dunque il giovane dal dottor Milillo e gli scrissi un biglietto offrendomi come assistente all'intervento. Credevo cioè che egli si prestasse a coprirmi col suo nome e a lasciarmi fare quello di cui temevo non fosse capace. Ma il vecchio quasi si offese e mi mandò a rispondere che sapeva far da sé e non aveva bisogno di aiuti. L'indomani, per tempo, vidi tornare da me il giovane della sera su un asino, accompagnato dal fratello maggiore. Era pallido come la cera. Aveva perso sangue tutta la notte. Guardai la sua mano. Il vecchio chirurgo si era accontentato di dare un punto a caso alla pelle. Non aveva neppure cercato l'arteria tagliata. Quello che sarebbe stato facile la sera prima era ora difficile. E io personalmente non potevo intervenire, vietato nell'opera altrui. Poiché i contadini non volevano tornare da Milillo né da Gibilisco, non restava loro che prendere la macchina, la 509 dell'americano, e farsi portare al più presto a Stigliano o più lontano in cerca di un chirurgo migliore. E così fecero. Ma prima di salire sull'automobile, il fratello maggiore, un uomo deciso e ardito, raccolse una folla di contadini e sulla piazza e davanti al municipio gridò a lungo le sue lagnanze per lo stato di cose attuale e imprecò e minacciò contro i signori e il podestà e quelli di Roma. Fu una scena memorabile. I contadini lo approvavano e si ebbe un'altra giornata torbida. La Giulia non dava nessuna importanza al divieto. «Fai quello che vuoi», mi diceva, «che ti possono fare? E poi, se non ti lasciano fare il medico, tu correrai lo stesso. Dovresti fare lo stregone. Ora hai imparato tutto, sai tutto, e quello non te lo possono impedire». In quei mesi, in verità, tra gli insegnamenti della Giulia, delle altre donne che mi venivano per casa e quello che vedevo ogni giorno nelle famiglie dei contadini e al letto dei malati, ero diventato maestro in tutto quello che concerne la magia popolare e le sue applicazioni alla medicina. E avrei potuto davvero seguire il consiglio della Sant'Arcangelese, che ella mi dava del resto seriamente, coi cattivi, languidi e freddi occhi posati su di me. Dovresti fare lo stregone. Con eguale serietà Giulia mi diceva, quando mi sentiva cantare, «Peccato che non hai fatto il prete. Hai una così bella voce». Per lei, il prete era un attore che cantava per tutti, in modo degno, le lodi di Dio. Prete, medico e mago. Per la Giulia avrei assommato tutte le virtù del rofè orientale, del guaritore sacro. La magia popolare cura un po' tutte le malattie, e quasi sempre per la sola virtù di formule ed incantesimi. Ve ne sono di particolari, specifiche per un male determinato, e di generiche. Alcune sono, a quel che credo, di origine locale. Altre appartengono al corpus classico dei formulari magici, capitate qua giù chissà quando e chissà dove e chissà per che vie. Di questi amuleti classici, il più comune era l'abracadabra. Visitando i malati, mi accadeva molto spesso di vedere, in generale appeso al collo con una cordicella, un fogliolino di carta o una piccola piastrina di metallo con su scritta o incisa la formula triangolare A, A, B, Abr, Abra, Abrac, Abraca, Abracad, Abracada, Abracadab, Abracadabr, Abracadabra. I contadini da principio cercavano di nascondere questo amuleto e quasi si scusavano con me di portarlo, perché sapevano che i medici hanno l'abitudine di disprezzare queste superstizioni e di tuonare contro di esse in nome della ragione e della scienza. E fanno benissimo, laddove la ragione e la scienza possono assumere lo stesso carattere magico della volgare magia. Ma qui esse non sono ancora, e forse non saranno mai, divinità ascoltate e adorate. Perciò io rispettavo gli abracadabra, ne onoravo l'antichità e l'oscura, misteriosa semplicità. Preferivo essere loro alleato che il loro nemico. E i contadini me ne erano grati e forse ne traevano davvero vantaggio. Del resto, le pratiche magiche di quaggiù sono tutte innocue e i contadini non ci vedono nessuna contraddizione con la medicina ufficiale. L'abitudine di dare a ogni malato, per ogni malattia, anche quando non è necessario, una ricetta, è un'abitudine magica, tanto più se la ricetta era scritta, come un tempo, in latino, o almeno con calligrafia incomprensibile. La maggior parte delle ricette basterebbe a guarire i malati se, senza essere spedite, fossero appese al collo con una cordicella, come un abracadabra. Di oggetti a virtù generica, oltre agli abracadabra, ce n'erano moltissimi e svariatissimi. Segni cabalistici, astrologici, immagini di santi, madonne di Viggiano, monete, denti di lupo, ossi di rospo e così via. Tutto un armamentario tradizionale. Più originali sono le cure delle singole malattie. I vermi dei bambini si incantano per sola virtù di parole. Si dice lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, domenica e Pasqua, ogni verme in terra casca. E poi, tornando indietro, sabato santo, venerdì santo, giovedì santo, mercoledì santo, martedì santo, lunedì santo, domenica e Pasqua, ogni verme in terra casca. Questa doppia formula, ascendente e discendente, va pronunziata 3 volte di seguito davanti al malato. E i vermi, incantati, muoiono. E il bambino guarisce. È certamente una formula antichissima, contaminazione di uno scongiuro romano arcaico che ci resta fra i primi documenti della lingua latina con un elemento cristiano. L'itterizia si chiama qui il male dell'arco, la malattia dell'arcobaleno, perché per essa l'uomo cambia di colore e in lui, come nello spettro del sole, prevale il color giallo. Come si prende il male dell'arco? L'arcobaleno cammina per il cielo e appoggia sulla terra i suoi 2 piedi, muovendoli qua e là per la campagna. Se avviene che i piedi dell'arco calpestino dei panni posti ad asciugare, chi indosserà quei panni prenderà, attraverso la virtù che vi è stata infusa, i colori dell'arco e si ammalerà. Si dice anche, ma la prima ipotesi patogenetica è la più diffusa e credibile, che bisogna guardarsi dall'orinare contro l'arcobaleno. Il getto arcuato del liquido somigliando e riflettendo l'iride arcuata del cielo, l'uomo intero diventerà una specie d'iride gialla. Per combattere l'itterizia, il malato deve essere portato alla prima alba su un colle fuori del paese. Un coltello dal manico nero deve essergli appoggiato sulla fronte, dapprima verticalmente, poi orizzontalmente, in modo che ne venga una specie di croce. Nello stesso modo, appoggiando diversamente il coltello, devono farsi delle croci su tutte le giunture del corpo, mentre si pronuncia ad ogni croce un semplice scongiuro. L'operazione va ripetuta 3 volte, senza omettere nessuna giuntura, e per 3 mattine consecutive. L'arco allora si ritira, di colore in colore, e il viso del malato ritorna bianco. La formula contro l'erisipela non serve da sola, ma soltanto associata all'argento. I contadini conservano in casa un vecchio scudo per quest'uso e non ho mai visto nessuno di questi malati, qua giù assai frequenti, senza incontrare, appoggiata sulla pelle gonfia e rossa, la grossa moneta. Ci sono formule per saldare le ossa, per i mali di denti, di ventre, di testa, per scaricare i dolori su qualcun altro o su qualche animale o pianta o oggetto, per liberarsi dal malocchio e dagli incanti. Ma qui, dalla medicina, si passa insensibilmente al suo contrario, ai modi per fare ammalare e morire, oppure all'altra e così importante branca della magia popolare, l'arte di costringere all'amore o di liberare dall'amore. Di quest'ultimo ramo fui certamente, come ho detto, molte volte spettatore e forse ancor più di frequente oggetto e vittima. E se lì per lì non mi accorsi di nulla, chi potrebbe essere certo che da quei filtri ed incanti non mi sia venuta poi, molto più tardi, tanta infelice capacità di passione? E intanto dovevo piuttosto difendermi dagli assalti diretti di qualche strega, come la Maria C., che mi mandava a chiamare fingendo che la sua bambina fosse malata, quando il marito, che era stato già in prigione per assassinio per gelosia, era nei campi. Era la stessa che aveva fatto morire di male misterioso il marito della vedova. La piccola, dicevano tutti, era figlia di quel morto, una bella bambina dall'aria civile. La madre era tale da fare davvero paura. Piccolissima e tozza, aveva una fronte bassa tanto che l'attaccatura dei capelli, blu neri e lisci, in 2 grandi bande separate da una riga diritta, quasi toccava le sopracciglia, anch'esse folte e scure. Sotto c'era un piccolo viso di animale selvatico, dal naso corto con le narici aperte e una piccola bocca carnosa dai bianchi denti aguzzi. Ma quel viso pallido, in tutto quel nero dei capelli e di ciglia, era riempito dagli occhi, pieni di follia, enormi, lontani, larghi nelle tempie, chiarissimi, azzurro-verdi, che facevano pensare a un lago dai bordi pericolosi di sabbie mobili, tra putridi alberi tropicali. «Dovresti fare lo stregone. Ormai sai curare anche alla nostra maniera». Io continuavo celatamente a fare il medico, avendo cura però di non contraddire le pratiche magiche. Qui, dove tutti i rapporti fra le cose sono influssi e magia, anche la medicina ha potere soltanto per il suo contenuto magico, pur restando corretta e rigorosa e scientifica, né sposandosi ad atteggiamenti misteriosi. Il chinino, purtroppo, ha perduto ogni potere, perché appartiene per i contadini a una scienza screditata, incomprensiva e pretensiosa. Ci voleva molta autorità per farlo accettare e, preso così, a malincuore, agiva poco. Preferivo sostituirlo con medicine nuove, più potenti in sé e più ricche d'influenza, come la tebrina e la plasmochina, che mi servirono sempre meravigliosamente perché agivano insieme e come sostanze chimiche e come influenze magiche.